Parliamo di lavoro. E torniamo a parlare di una delle modalità con le quali potrebbe essere facile entrare nel mondo del lavoro, uno degli istituti, diciamo, più diffusi per consentire soprattutto ai giovani i primi rudimenti della formazione, lo stage. E allora ieri Repubblica degli Stagisti, che è una testata giornalistica online attiva con dei focus esclusivi direi sul tema del lavoro, ha organizzato il suo evento annuale per fare il consueto punto sulla situazione dell'occupazione giovanile, e c'è stato proprio un focus sul tema degli stage, perché si è cercato di capire quante aziende quest'anno abbiano continuato a mantenere un presidio su questo istituto, consentendo la formazione appunto dei giovani per farli entrare evidentemente in azienda. Ma chiaramente, come dicevamo prima, con la formazione a distanza non è che sia stato con il lavoro a distanza, con lo smart working e il lavoro agile, non è che sia stato molto facile per tutte le aziende continuare ad avere degli stagisti e a formarli anche in maniera adeguata, Mauro, perché poi il punto è questo: li puoi anche fare, ma sono validi questi strumenti per una formazione iniziale adeguata, per un ingresso appunto nell'azienda? A chi lo vogliamo chiedere? Lo vogliamo chiedere a Eleonora Voltolina, che è tornata a trovarci, fondatrice e direttrice della testata proprio Repubblica degli Stagisti.it. Buongiorno, bentornata a Due di Denari. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono i risultati della vostra ricerca? Questi stage fatti così, insomma, da remoto, servono, hanno funzionato, si sono fatti, hanno una qualche efficacia, hanno mantenuto qualche efficacia? Allora, innanzitutto bisogna dire meno male che si possono fare, perché altrimenti avremo decine di migliaia di persone, soprattutto giovani, a spasso, senza la possibilità di avere un'attività e di avere anche un'indennità mensile. Quindi meno male che c'è questa possibilità. Certo, però ci sono luci e ombre. Noi abbiamo fatto una survey sulle aziende che fanno parte del network della Repubblica degli Stagisti, che avevano tutte quante praticamente stage attivi al momento dello scoppio della pandemia e che quindi si sono dovute trovare a gestire, oltre ai dipendenti da far lavorare da casa, anche gli stagisti da far continuare ad avere la loro formazione da casa. E direi che è importante sottolineare che le principali complessità che sono state indicate dalle aziende sono state, per l'81%, garantire il rapporto tra tutor e stagisti, che è importantissimo ma è molto più difficile se non si vedono in ufficio. Il 73% ci ha detto assicurare la qualità formativa, perché è vero che è molto anche più difficile formare una persona se non ce l'hai vicina, se non può anche, si impara con gli occhi anche molto spesso, quindi il fatto di non essere a contatto con i colleghi, con i capi, rende anche un po' più difficile imparare. E poi non perdere la motivazione degli stagisti nel 62% dei casi, perché questi stagisti a casa si deprimono un po', questo bisogna dirlo, che non è così facile mantenere anche l'entusiasmo e la proattività quando sei, diciamo, a casa tua tra quattro mura, invece che inserito in un ambiente in cui c'è uno scambio continuo. Ed è anche per questo che noi forse siamo anche sorpresi dal fatto che quasi la metà delle aziende ci ha detto, alla domanda, ma voi continuereste a usare questa modalità di stage da remoto, magari in una forma mista, presenza, remoto, anche quando l'emergenza sarà finita? E quasi la metà delle aziende ci ha detto assolutamente no. Ma questo, anche poi nel dibattito che abbiamo avuto durante Best Stage, è venuto fuori che per una persona adulta che ha già una grossa esperienza lavorativa solida, fare un po' di mansioni da casa, lavorare per qualche mese o qualche anno da casa, è una cosa, diciamo, accettabile e non ha ripercussioni negative. Ma per un giovane che ha la sua prima esperienza, privare il giovane di questa possibilità di entrare fisicamente in un posto di lavoro è penalizzante. Detto questo, io dico che comunque piuttosto che meglio è meglio piuttosto che niente è meglio piuttosto, quindi certo. Meno male che c'è questa possibilità, perché altrimenti sarebbe un disastro. Deborah. Anche perché, un'ultima domanda velocissima ad Eleonora, perché poi dobbiamo passare allo spazio con INAP, in realtà secondo me anche la flessibilità dei ragazzi di adattarsi a questa forma di ricevere lo stage in realtà può mettere in luce una cosiddetta soft skill, una di quelle competenze leggere che comunque spesso dalle aziende sono anche molto apprezzate. Eleonora. Certo. Certo, assolutamente, tra l'altro mette in gioco anche questi ragazzi sono principalmente nativi digitali, quindi per loro è anche più facile, possono anche mettere in luce degli skill, come dicevi tu, delle capacità che magari non sarebbero emerse in un normale lavoro d'ufficio. Quindi io sono assolutamente convinta che ci siano delle opportunità anche in questa nuova nel mettersi alla prova con questa nuova modalità. E detto questo, forse la modalità più win-win sarebbe quella di una forma mista, in cui comunque anche quando noi abbiamo parlato di smart working c'è sempre stato il tema di garantire al lavoratore la possibilità di non perdere completamente il filo con la connessione con il posto di lavoro. Ecco, questo penso che sarebbe bello riuscire a realizzarlo anche per i tirocini. Grazie Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti, che è repubblicadegliistagisti.it. E adesso noi andiamo a parlare di lavoro con INAP. Parliamo di lavoro con INAP. E ne parliamo con due ricercatori che in realtà sono già intervenuti, anche se non nella stessa puntata, proprio in questi mercoledì che svolgiamo con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. In rigoroso ordine alfabetico per cognome, bentornato a Riccardo Mazzarella, sociologo del lavoro, responsabile per INAP del gruppo di ricerca Atlante Lavoro. Buongiorno, bentornato dottor Mazzarella. Buongiorno a voi. E bentornato anche al dottor Andrea Ricci, che è un economista sempre presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, nonché responsabile del progetto strategico Analisi Strategica delle Politiche Pubbliche. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, Deborah, io faccio una velocissima telegrafica introduzione. Oggi ci occupiamo di lavori verdi, green jobs. E che cosa ha fatto l'INAP? Ha fatto una ricerca che presentiamo in anteprima, perché i risultati saranno diffusi solo a gennaio, in cui ha incrociato i dati che provenivano dal sistema delle comunicazioni obbligatorie del lavoro con l'Atlante del lavoro, che è di INAP, per capire di che cosa parliamo quando parliamo di lavori verdi, dove sono questi lavori verdi che vanno dal lavoro, non so, dal giardiniere, ma possono arrivare all'ingegnere che progetta il fotovoltaico, e quindi per capire anche che prospettive possono avere. Mazzarella, ho riassunto correttamente, mi pare? Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto questo lavoro dove abbiamo cercato essenzialmente di contestualizzare queste policy ambientali all'economia reale, diciamo così, perché talvolta queste misure che vengono enunciate sono un po' generiche, no? Penso alla tutela ambientale, la riduzione dell'impatto, la riconversione, cioè la curiosità è stata riuscire a capire quali attività economiche sono effettivamente coinvolte. E in questo modo, diciamo, attraverso questo strumento che abbiamo, il sistema informativo Atlante Lavoro, siamo riusciti a intercettare quelle che possono essere, diciamo, le attività economiche che maggiormente vengono caratterizzate più di altre da contenuti ambientali. Sostanzialmente abbiamo individuato due categorie, una che abbiamo definito core green, cioè verde puro, verrebbe da verde dire, puro, verde, diciamo, totale, sì. Sì, esatto, che è già presente nell'economia reale oggi, penso all'energia con tutto il tema delle rinnovabili, all'economia circolare, no, con la questione del recupero, mobilità, la riduzione del rischio idrogeologico, la gestione forestale, insomma rigenerazione urbana e così via. E abbiamo anche invece individuato una categoria che possiamo definire, cioè di economia potenziale, di prossimo sviluppo sul medio o lungo periodo, in cui penso all'agricoltura biologica, al tessile biologico, alla bioedilizia, all'ecoturismo, alla meccanica con la produzione di macchine, impianti a ridotto impatto ambientale. Questo è stato il primo passaggio che abbiamo fatto, insomma abbiamo contestualizzato alle attività economiche queste politiche. Per distinguere, mi scusi, il senso è per distinguere quelle che sono attività proprio nate per l'attenzione ambientale, certo, e quelle che invece sono attività esistenti che si stanno riconvertendo, si riconvertiranno, si sono riconvertite a una declinazione ambientale maggiore. Sì. Riprendiamo a parlare di lavoro con INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che si è fatto una domanda, l'Istituto, i suoi ricercatori si sono fatti una domanda che spesso ci facciamo anche noi cronisti, verrebbe da dire, dottor Ricci, cioè ma si fa presto a dire lavori verdi, ma in realtà bisognerebbe prima di tutto capire di quali lavori parliamo e poi ma hanno veramente delle prospettive? E voi in questa ricerca vi siete posti questa domanda, cioè che prospettive hanno, quanto sono diffusi, quali sono quei lavori che possiamo davvero considerare lavori verdi, lavori importanti per l'ambiente, decisivi per l'ambiente, come li dobbiamo contabilizzare in qualche modo? Ci spieghi, dottor Ricci? Certamente, lei ha colto il punto. Se parliamo di politiche ambientali, innanzitutto dobbiamo capire di che cosa parliamo, di lavoro connesso al cambiamento energetico dell'economia e il fenomeno è ancora più complesso, quindi innanzitutto bisogna definire il perimetro del problema. Riccardo Mazzarella ha giustamente introdotto il valore essenzialmente di questa ricerca, che per ora è metodologico. Noi abbiamo messo insieme il sistema informativo dell'Atlante Lavoro, che ci dà una ricchezza in tal senso unica, diciamo, e abbiamo inserito questo valore informativo delle professioni verde dentro il sistema delle comunicazioni obbligatorie, che raccoglie tutte le attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro in Italia da parte dei lavoratori e delle imprese. In sintesi, da questo lavoro che cosa è emerso? Che i lavoratori, diciamo così, full green, quelli già impiegati a pieno titolo nell'economia ambientale, diciamo così, sono l'1% di tutti gli occupati, escluso le partite d'IVA e il settore pubblico. Quindi nel settore privato l'1% sono dei posti di lavoro sono pienamente green. Stiamo parlando di ingegneri, esperti di energie rinnovabili, paesaggisti, tecnici di riconversione energetica, di riassetto idrogeologico del territorio e via dicendo. Poi abbiamo però un sostanziale 8% di professioni che potremmo definire ibridate, cioè quelle che già sono in un processo di cambiamento verde. Stiamo parlando di nuovo di ingegneri dei materiali che si applicano alla costruzione magari di macchine a ridotto impatto di inquinamento, tecnici anche del marketing specializzati nella sensibilizzazione, no? Le campagne alla Greta delle tematiche ambientali. Stiamo parlando di tecnici della ristrutturazione edilizia vicino alle tematiche dell'efficientamento energetico. Sostanzialmente queste due categorie, i full green e l'hybrid green, che sono un indicatore di quanto la nostra economia è coinvolta in questo grande processo di riconversione energetica, economica e sociale, diciamo così, sono circa il 9% in Italia. Se poi mettiamo dentro anche le professioni che genericamente potremmo immaginarsi coinvolte nel processo verde, arriviamo al 21%. Quindi, diciamo così, una politica economica che punta all'economia verde è una politica economica che ha un senso economico e non solo un senso civile, che avrebbe un impatto molto forte. Poi adesso, esatto, che uno dei grandi temi su cui l'Europa appunto deve assegnare i fondi del Recovery Fund, esatto, è l'ambiente, questa ricerca diventa un abbastanza cruciale, direi uno strumento molto importante anche per chi dovrà decidere un po' la selezione dei progetti da presentare, mi immagino, Ricci. Esattamente, questo è il secondo punto che volevamo sollevare, perché anche se il dato medio è dell'1% full green e dell'8% green ibridati, diciamo così, da professioni verdi, il 9% delle professioni verdi in Italia sono distribuite in maniera molto come dire, differenziata sul territorio nazionale da un punto di vista geografico e da un punto di vista produttivo. Cioè dove sono situate? Perché questo è interessante capire, allora, dove sono più verdi e meno verdi. Territori. Per quanto riguarda i territori abbiamo una sorpresa fino a un certo punto. Noi abbiamo le professioni proprio core green che sono localizzate essenzialmente al sud. Nel senso sono in Sicilia, sono in Campania, sono in Puglia, in Basilicata e via dicendo. Naturalmente una parte è sostanza e una parte è apparenza economica. Molto di quello nel sud, cioè, il tema ambientale è anche legato al turismo, alla tutela forestale e altri aspetti non necessariamente e strettamente economici. Quindi i full green, i vecchi lavori verdi, quelli tradizionali, sono localizzati soprattutto nel sud, però questo non nasconde il fatto che è una grandissima opportunità per le regioni meno sviluppate del nostro paese per creare una prospettiva di sviluppo. Se invece andiamo a vedere le professioni che si stanno progressivamente spostando sull'economia verde e sulle professioni verde, noi troviamo un recupero sostanziale le regioni del nord, segnatamente la Lombardia e il Piemonte, cioè le regioni del nord-ovest. Tra queste, ne parlavamo ieri, diciamo così, per le vie brevi, abbiamo il caso non sorprendente dell'Abruzzo. L'Abruzzo ha dei dati che ci raccontano una progressiva trasformazione verso un'economia verde di ristrutturazione energetica. Però è certo, ma lì è viziato dal sisma del certo. Terremoto. Ecco. Quindi c'è una maggiore necessità perché purtroppo il territorio è stato più ferito. Sì. Ma torno un attimo da Mazzarella. Lei che ha, diciamo, sotto mano l'Atlante Lavoro, come vede l'evoluzione? Cioè questo 21% complessivo potrà andare a incrementarsi oppure rispetto anche a quello che possiamo cogliere da altri stati più o meno ci siamo, insomma siamo già una percentuale ragionevole di diffusione di questo tipo di lavori. Sì, ho detto prima, è molto difficile fare una stima sull'economia potenziale del Go Green, però sicuramente i dati sono molto significativi. Ho l'impressione dallo studio che abbiamo fatto che ci sia però per un pieno dispiegamento di queste possibilità c'è bisogno di fare uno scatto in avanti, non guardare l'ambiente come una risposta a un fabbisogno, no? Quindi ragionare secondo la vecchia logica della tutela ambientale, ad esempio, ma vedere all'ambiente, al green, come ad un'opportunità. Magari questo è banale dirlo, però effettivamente è su questo che si gioca probabilmente certo. Lo sviluppo di quest'area Go Green, che è l'area più interessante, diciamo, dal punto di vista economico. Certo, Mazzarella, effettivamente sì, è vero, potrebbe essere anche ovvio fare questa considerazione, ma infatti segnala quanto è oramai palese l'esigenza di sviluppare una maggiore sensibilità anche nei vari lavori, nelle varie professioni. Ci ritrovati in diretta con la ricognizione di INAP sui lavori verdi, i green works, i green jobs. Dottor Riccardo Mazzarella, parlando appunto di questi lavori verdi, lo spiegavamo prima, voi avete distinto in core green. Lo so che ai nostri ascoltatori non piace l'utilizzo estremo dell'inglese, ma dobbiamo necessariamente anche adattarci a questo cambiamento, perché comunque anche i ragazzi che si stanno formando in questo ambito parlano in inglese perché lavorano sempre di più con i mercati internazionali, in un contesto internazionale. Quindi core green, lavori core green direttamente connessi all'ambiente, e lavori go green non direttamente connessi ma soggetti ad un cambiamento in chiave ambientale. Tutto questo, due aspetti, dottor Mazzarella: come sta cambiando la struttura occupazionale del nostro paese, la struttura del mercato del lavoro nel nostro paese, e soprattutto le ricerche di INAP si interrogano anche su come si formano i green workers? Sì, beh, diciamo non ancora in modo diretto, perché appunto, come ricordava Meazza all'inizio, questo è uno studio che ancora dobbiamo pubblicare, però sicuramente vogliamo andare ad individuare quali sono le competenze che poi servono per gestire questi lavori e anche quale può essere diciamo, il percorso formativo e di apprendimento che meglio può creare un loro sviluppo e un loro potenziamento. E va detto che l'ambiente però è una questione un po' particolare in questo senso, perché fondamentalmente porta con sé un incremento dell'attività della ricerca e dell'innovazione, quindi è un ambito che traina in un certo senso questi aspetti e quindi di conseguenza anche un innalzamento dei livelli di professionalità operanti in questo ambito. Quindi dobbiamo immaginare che questo è un contesto dove si va ad ampliare, a migliorare, diciamo così, il livello medio di qualificazioni presente in questo tipo di lavori. Quindi ci può essere un effetto trascinamento del tema ambientale direttamente sulla complessità delle competenze richieste per svolgere questo tipo di lavori. C'è una curiosità, Deborah, che mi viene. Nella ricerca, se capisco bene, l'INAP si è chiesta anche quali possono essere le prospettive, cioè insomma impegnarsi nel verde poi paga, nel senso che garantisce retribuzioni soddisfacenti, ma anche e soprattutto dà prospettive nei tempi prevedibili, insomma di qui a qualche anno, ragionevolmente buone. E penso che forse il dottor Ricci sia più occupato di questo aspetto. Ricci. Sì, questo è il terzo risultato che emerge dalla ricerca. Noi siamo andati a vedere se le persone occupate in professioni verdi avessero o meno un vantaggio in termini di giornate lavorate nel corso dell'anno nella stessa impresa, quindi in termini anche di salari e di stabilità occupazionale rispetto a chi non era occupato in professioni verdi. Allora, i risultati per tutta l'Italia sono in parte controversi, perché noi vediamo che effettivamente chi è occupato in professioni verdi durante l'anno ha un vantaggio di almeno 17 giorni lavorativi in più. Significa che sono più stabili, guadagnano di più rispetto ai lavoratori che non sono in professioni verdi. D'altra parte, questo risultato si affievolisce fino a scomparire se consideriamo dove questi lavoratori si trovano collocati a lavorare, cioè la dimensione geografica e il settore di attività. Quindi significa che, almeno in apparenza, le caratteristiche individuali in sé non sono così determinanti per le prospettive di reddito e di occupazione degli individui che sono occupati nei lavori verdi, o almeno sono meno importanti del settore di attività e della localizzazione geografica. Ritorniamo alla domanda che ha fatto Riccardo, la sua collega: chi genera i lavori verdi in Italia? Beh, una parte, almeno finora, è stata generata dall'assetto idrogeologico del territorio e dai disastri ambientali. Non c'è stato sembra almeno dai dati un coordinamento un'armonizzazione di questo tipo di sviluppo nel territorio nazionale, tant'è che i dati ci raccontano che essenzialmente quello che tu guadagni dalle professioni verdi dipende da quale settore di attività sei occupato e in quale regione. Però, come dire, questo quadro si arricchisce quando andiamo a dettagliare ulteriormente le analisi e vediamo se ci sono qualche specifica caratteristica dei lavoratori che possono aiutare, diciamo così, le prospettive di progressione e lavorative in questa filiera ambientale. E effettivamente ci sono dei segnali molto incoraggianti, perché noi vediamo che il guadagno dei lavoratori occupati in professioni verdi aumenta sensibilmente quando il lavoratore è laureato, quando il lavoratore è donna e quando il lavoratore è giovane. Questo significa che questi lavori che stanno nascendo, diciamo così, si stanno sviluppando in una nuova generazione tecnologica, come suggeriva Riccardo, cioè non sono più i vecchi lavori ambientali riflesso dell'assetto idrogeologico del territorio, ma sono anche lavori derivanti da nuove dal cambiamento del paradigma tecnologico produttivo che è attualmente in corso. Ecco, vanno a favorire, come dire, quei segmenti della popolazione, i più giovani, le donne, cioè i più istruiti, che effettivamente potrebbero dare un impulso se facilitati da adeguate politiche di formazione ambientale e di inclusione a questa prospettiva economica. Io so che voi non fate politica, ma questo è quasi un po' un'indicazione molto chiara a chi dovrà decidere, insomma. Deborah, prego, abbiamo un minuto. Ma guarda, io direi che possiamo andare verso le conclusioni con i nostri ricercatori, raccomandando loro naturalmente di continuare ad esplorare queste nuove tendenze che sono assolutamente molto interessanti. Non so a chi rivolgere la domanda, sia a Mazzarella o Ricci, magari a Mazzarella per par condicio, per farlo chiudere. Mi chiedevo se questo anno così duro, questo anno del Covid, che ha sicuramente mortificato tutto lo spirito di iniziativa possibile da parte di imprenditori e lavoratori, in qualche maniera ha ridimensionato anche le scelte di investimento verso questa direzione da parte delle aziende, rallentando un po' tutto questo processo di conversione verso il green, oppure secondo lei il Covid e la crisi che ne deriva accelera questo processo di cambiamento? Purtroppo abbiamo pochi secondi, Mazzarella, ma una riflessione flash forse ce la facciamo. Sì, no, direi distinto, che probabilmente potrebbe accelerare, però accelerare. Forse non nell'immediato, però sicuramente può accelerare. Grazie, certo. Grazie. Deborah, noi domani parliamo di risparmio, giusto? Parliamo di risparmio, informati, e torniamo su un tema che è piaciuto molto agli ascoltatori, per cui ci torniamo, previdenza complementare. Bene, a domani allora, grazie. A presto. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.